Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parliamo di un argomento che è cruciale per la sopravvivenza delle nostre imprese, soprattutto delle nostre imprese manifatturiere, e cioè il trasferimento di innovazioni dall'università fino all'azienda. Le aziende oggi sono competitive, possono sopravvivere solo se hanno prodotti ad alto valore aggiunto e soprattutto innovativi, e la maggior parte delle fonti di innovazione è costituita dalle università. I paesi con una politica industriale strutturata, quali la Germania e gli Stati Uniti, hanno dei meccanismi istituzionalizzati per trasferire le conoscenze dalle università all'azienda. Penso per esempio alla grandissima esperienza delle Fraunhofer tedesche. In Italia è tutto affidato alla libera iniziativa dei singoli, ognun per sé, Dio per tutti. Quindi ci sono iniziative sporadiche, anche volte molto valide, ma a macchia di leopardo. Io oggi vi vorrei parlare di Next Materials, una iniziativa che è un SRL, ma non a fini di lucro, creata da tre professori di due diverse università per trasferire innovazioni importanti dall'università e dalla ricerca scientifica fino alle aziende. I professori sono Teodoro Valente, che è prorettore alla ricerca dell'Università di Roma La Sapienza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Alberto Cigada, che è del Politecnico di Milano. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. E poi c'è un terzo professore del Politecnico di Milano che si chiama Roberto Chiesa e che non è ospite con noi, ma è uno del terzetto, che è un terzetto che insomma... Poi, come vedrete, ha fatto delle cose importanti e anche affascinanti. Ma, professor Valente, perché è così importante dal suo punto di vista trasferire know-how dall'università alle aziende e perché deve servire una creazione come la vostra, come Next Materials? Ma guardi, la risposta è abbastanza semplice. La sfida dell'innovazione oggi è basata sulle idee che vengono trasferite e che si trasformano in imprese. Dal punto di vista del nostro paese siamo ancora un pochino indietro rispetto a quella che è la situazione a livello, se, come diceva lei in premessa, europeo, se vuole di carattere internazionale. Siamo infatti nella fase di crescita numerica di queste iniziative delle imprese innovative, mentre da altre parti sono iniziate già da tempo le strategie di exit con ritorni economici a beneficio dell'intero sistema e dell'intera società particolarmente rilevante. Ma perché fare tutto ciò in un SRL? Beh, è la forma più semplice per poter iniziare a collaborare nell'ambito di un approccio di natura, come dire, privatistica e non pubblicistica. Ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, oggi puntata con due professori, Teodoro Valente dell'Università di Roma, che è anche prorettore per la ricerca e l'innovazione, e Alberto Cigada del Politecnico di Milano. Parliamo di Next Materials, una loro creatura, un SRL, che è finalizzata a trasferire innovazioni dal mondo dei laboratori e delle aule universitarie fino al mondo dell'impresa. Io ho qui di fronte a me una delle loro slide con un lungo elenco di innovazioni, che sono soprattutto innovazioni che hanno a che fare col mondo dei materiali nanotecnologici. Per esempio c'è questa Solgel, trattamento di Solgel con varie funzionalità, fotocatalisi, autopulizia, antinfiamma, antibattericità, e vedo che praticamente l'uso industriale per realizzare prodotti di vita comune di materiali nanotecnologici, giusto, no, professor Cicada? Assolutamente sì. Cioè, me lo racconta un po' cosa fa questo Solgel? Allora, la tecnologia Solgel è una tecnologia che richiede da un certo punto di vista una chimica molto complessa nella fase iniziale, ma che dal punto di vista applicativo può diventare estremamente pratica. Noi realizziamo delle dispersioni colloidali di ossidi di particolari metalli, un po' come il latte, sì, per capirci, che poi possono essere depositati su qualsiasi superficie, su tessili, su materiali metallici, su materiali polimerici e così via. Per cui l'utilizzatore deve semplicemente limitarsi a immergere quello che deve rivestire con il Solgel. Dopodiché avvengono delle reazioni chimiche all'interno di questa soluzione che fanno sì che si riesca a rivestire la superficie con dei film bidimensionali di ossido di titanio, ossido di zirconio, ossido di zinco e quant'altro. Ognuno di questi può dare delle particolari funzionalità innovative ai materiali che sono quelle che lei in qualche modo ha già citato. E lei che cosa aggiungerebbe, professor Valente? È un'invenzione, quella portata avanti da questa società, particolarmente rilevante e con campi di applicazione molto significativi nell'ottica della sostenibilità ambientale, che è uno dei temi primari. Ma come mai poi questo Solgel diventa per esempio antifiamma? Che cosa succede in pratica, professor Valente? Me lo spieghi? Cioè, c'è questo gel di materiali nanotecnologici di fiamma, non antifiamma. Eh? Questo dipende, è un ritardante di fiamma, non antifiamma. E io allora metto questo gel dove? Cioè, come funziona? Come fa a ritardare la fiamma? Beh, dunque, si mette sulla superficie dei componenti o dei materiali che vengono trattati e in funzione della tipologia di particelle tipicamente nanostrutturate, come diceva il collega Cigata poc'anzi, che vengono inserite nel bagno e che quindi restano sulla superficie del materiale, si possono sviluppare delle particolari capacità di inibizione o ritardo alla propagazione delle fiamme. Quindi dipende anche qui dalla tipologia. Ma qual è la situazione? È una situazione di industria, cioè dentro una fabbrica ci sono dei momenti della lavorazione di determinate cose che hanno rischio fiamma? No, ma questo vale anche per degli oggetti che possono essere utilizzati a scopo puramente, come dire, decorativo all'interno di un'abitazione, in materiali che di per sé hanno una sensibile suscettibilità alla propagazione di fiamme, che trattati superficialmente in questo modo invece risultano essere tra l'altro anche a norma. Aveva qualcosa da aggiungere, Cingada? Sì, faccio un esempio molto semplice. Pensiamo ai tessuti, al tessile, che può essere reso a ritardo di fiamma tramite semplici immersioni in questi bagni. Cioè, fai un bagno e poi conserva le proprietà a ritardo di fiamma per tutta la sua vita? Assolutamente sì. Ecco, se pensiamo ad esempio ai rivestimenti di un aereo, di un cinema, di una nave, è chiaro che il ritardare la fiamma è estremo. Ci sono già delle normative che l'impongono in qualche modo. Nel mercato cosiddetto contract i materiali devono essere a ritardo di fiamma e questo oggi si può ottenere con metodi molto semplici. Capiamo tutti come sia importantissimo per la sicurezza antincendio nei locali pubblici. Ah, assolutamente sì, io non mi aspettavo, cioè io per esempio non so, questo cellulare che ho qua mentre registriamo lo ficco nel Solgel e poi se qualcuno vuol dar fuoco al mio cellulare no, il tuo cellulare non brucierebbe comunque, però per esempio trattando il vetro del tuo cellulare lo può rendere anti-scratch, cioè aumentare di molto la resistenza all'usura. Faccio anche un esempio, anche l'acciaio inossidabile può essere reso anti-scratch. Pensiamo al piano di una cucina, a un fornello in acciaio inossidabile che ci costa parecchie migliaia di euro, poi lo righiamo con la paglietta ed è un bel disastro. Questi trattamenti ci sono già e possono servire per aumentare la resistenza all'abrasione, allo scratch, all'incisione di superfici metalliche, di vetro e polimeriche ovviamente. Comunque, professor Valente, è tutto con materiali nanotecnologici. Eh sì, esattamente sì, e aggiungo quello che diceva il collega Cigata, come altri esempi applicativi anche la possibilità di avere capacità antibatteriche, per esempio nello specifico su alcuni utenti. Un'altra cosa che voi avete fatto si chiama Filtri Next, trattamento e filtri per aria che abbattono la carica batterica impedendo anche la colonizzazione batterica dei filtri stessi, che è una cosa importante perché quando uno ha i condizionatori o gli impianti di riscaldamento si dice che sono covi di batteri. Esattamente, sono anche a volte fonte di qualche brutta malattia, tant'è che i filtri dei condizionatori devono essere necessariamente soggetti ad una periodica pulizia, se vuole una periodica sterilizzazione, onde evitare che colonie batteriche possano insediarsi e dare origine, per esempio, parlo dell'uomo, alla legionella o a forme che... E come mai i materiali nanotecnologici riescono a impedire che questo avvenga, Cigada? Questo è grazie alla deposizione di un film di biossido di titanio e all'illuminazione con dei LED UV, cosa oggi molto semplice perché trattare un filtro con biossido di titanio è facilissimo, inserire all'interno di un qualsiasi dispositivo alcuni LED UV è altrettanto semplice, lavorano normalmente a 12 volt. La presenza dei LED UV fa sì che la superficie di biossido di titanio diventi fotocatalitica, cioè faciliti tutti i processi di ossidazione delle specie chimiche, eccetera, e anche un forte effetto antibatterico. Ecco, ma quello che non capisco è Next Materials ha contribuito a sviluppare questa innovazione e poi sono diventate aziende, cioè che cosa è successo? No, perché no. Queste innovazioni sono nate nell'università, poi da lì a essere un prodotto commercializzabile o un'azienda, che cosa manca nel mezzo? Allora, sia io che il professor Valente siamo all'interno del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, di cui Valente è anche presidente, che raccoglie 46 università italiane. Cioè praticamente abbiamo in qualche modo accesso a tutta la ricerca universitaria nel mondo della chimica dei materiali e dell'ingegneria dei materiali. Questo ci consente di individuare fra le ricerche svolte all'interno del consorzio quelle che sono le tecnologie più interessanti. Per poter sviluppare queste tecnologie e attraversare quella che viene chiamata la valle della morte, cioè il passaggio dall'accademia alla produzione, è necessario un lungo lavoro di ricerca e sviluppo che sarebbe estremamente costoso da fare all'interno delle aziende che non hanno le conoscenze scientifiche e il capitale umano sufficiente, mentre è più semplice farlo all'interno del mondo accademico che hanno queste competenze e queste capacità. Comunque voi avete un sito che è www.nextmaterials.it e chi fosse in ascolto e fosse interessato ad approfondire può andare lì. Vedo che anche un'altra cosa che avete fatto si chiama 3D paper, filamenti per la stampa 3D a base di carta riciclata, praticamente si ricicla la carta per fare poi delle stampe additive. Assolutamente sì, ma non è solo l'utilizzo della carta riciclata per fare il materiale, l'altra cosa molto importante è che poi che questi materiali possono essere riciclati all'interno della filiera della carta cartone. Sì, però con quella carta lì che cosa stampo io in 3D? Le proprietà che riusciamo a ottenere all'interno di questo composito sono assolutamente paragonabili a quella degli altri materiali. Qualsiasi tipologia di oggetto possiamo realizzare. Possiamo realizzare praticamente ogni oggetto che può essere realizzato in stampa 3D, piccole statue, braccialetti, gioielli, tutto quello che si vuole. Poi un'altra cosa che vedo che mi incuriosisce è questa OsteoNext, trattamento biomimetici e antibatterici per aumentare l'osteointegrazione di impianti dentali e ortopedici, praticamente perché l'impianto attecchisca meglio sul dente si fa questo trattamento. Assolutamente sì, è una modifica superficiale del titanio che si chiama, è complesso il nome, Anodic Spark Deposition, che consente di inserire all'interno del film di osteo di titanio qualsiasi specie chimica, per esempio ioni calcio e ioni fosforo, che sono alla base della componente minerale dell'osso. In questo modo l'osso trova sulla superficie dell'impianto un ambiente chimico che gli assomiglia molto e ricresce più facilmente. Questa, ad esempio, è una tecnologia che abbiamo brevettato e già trasferito al mondo industriale, anche nel mondo statunitense, dove anche ha avuto l'approvazione dell'FDA. Interessantissimo. Parlerei per ore con voi, ma il tempo è tiranno. Professor Valente, la ringrazio, la saluto. Grazie a voi, saluti. E ringrazio anche il professor Cigada. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci a tutti. A sabato prossimo, ore 14.